c'è l'ancora sulla pelle, quell'odore di colline, sono lucine o sono stelle, quelle cose dove la campagna fine, ti ricordi papà, mi tiravi per la mano, sul tuo passo più costante, tu un gigante e io un nano, mentre davi un nome agli alberi e alle piante, e raccontavi fatti e misteri di laggiù, così per lunghi tratti, e se non ce la faccio più, tu mi trovavi un legno e io ci montavo su, con quel cavallo e un regno e uno schiocco e patapà, al galoppo e all'avventura. Sotto quel tuo naso grosso, messo come prua, e non avevo mai paura, dentro la tua scia ti stavo sempre addosso, e nella sera chiara, da lontano l'armonia di un suono di fanfara, di un tam-tam di prateria, e le tue braccia forti che incavano la via ai miei ginocchi storti e agli occhi, e padabam, padabam, e padabam, padabam, e padabam, padabam. Padabam, padabam, padabam, padabam.